Credevo di poter contare in un qualsiasi istante sulla tua presenza. Restarne mano assenza e coerenza dalla partenza. Ti ho dato confidenza, ma ora ho preso coscienza che di gente come te talvolta è meglio starne senza. E non ho pace né pazienza, solamente l'esigenza di dar fuoco al rapporto versando benza. Scalzo l'apparenza e vado all'evidenza, mancanza che porterai fino alla tua ultima sentenza. Ti vado a fottere la tua amicizia, l'occorrenza, la tua falsa astuzia, istinto di sopravvivenza. Polizia in quella finta arguzia lenta, perché bocca facilmente, non per gente che mostra certa capienza. Ogni movenza è studiata come una scienza, prudenza mai troppa trasformata poi in diffidenza. E conoscenza, vanescenza, in conseguenza tu dispensa maldicenza. Per me la tua era solo in esistenza. Adesso dimmi se tu stai o non stai con me. Adesso dimmi se l'hai fatta e qual è il perché. Senza motivo mi hai colpito sulla schiena. Adesso dimmi se tu stai o non stai con me. Adesso dimmi se l'hai fatta e qual è il perché. Voglio una giustificazione ad ogni azione. La pagherai con gli interessi. Che sei una donna, un amico, un membro di un gruppo compatto. Non ha avuto la costanza di tenere fine in fondo, fede a un certo patto. Lo fanno senza tatto, ti prendono il cuore in affitto e dopo sei costretto a chiedergli lo sfratto. Di netto tra angeline di contatto restano colori freddi. Se nella memoria vuoi farne un ritratto, i momenti di silenzio sono il frutto di un ricatto. Fanno nascere e morire fasi alterne, voglia di riscatto. Porgono scuse e me ne sbatto, perché siamo adulti e sappiamo quello che è giusto fare, ciò che non va fatto. Da fuori guardo con occhi di ghiaccio, schiaccio i ricordi col materasso di un letto ancora disfatto. Il brutto è se non carburi il coraggio di sfilarti quell'anello dal dito e di rifiutare ogni suo abbraccio. Lascia che Giuda non ti abbia in ostaggio, voltagli le spalle ed attendilo al parco per i radio ogni suo sbaglio. Adesso dimmi se tu stai o non stai con me. Adesso dimmi se l'hai fatto e qual è il perché. Senza motivo mi hai colpito sulla schiena. Non capisco se fai schifo, se fai pena. Adesso dimmi se tu stai o non stai con me. Adesso dimmi se l'hai fatto e qual è il perché. Voglio una giustificazione ad ogni azione. La pagherai con per tutte quelle finte facce che mi hai fatto, quando in fondo i tuoi interessi già miravano a tutt'altro. Per quanto hai detto sul mio conto, finto scaltro cos'è? Forse di me non hai capito più di tanto. Traditore, fare la giusta fine, perché da questo momento lo concludi o sto copione. E non c'è nulla che mi fermi, ho le giuste armi per spingerti a bruciare dritto negli inferni. Solamente se conviene a loro stessi, ti stan vicini per curar meglio i loro interessi. Lo fanno per un proprio tornaconto, inventano sentimenti di comodo purché tu stia a loro gioco sporco. Ti rendono una marionetta, ti manovrano dall'alto per far ciò che la loro mente progetta. E sono personaggi così fini che quando non mangiano più su di te ti buttano e tagliano i fili. Adesso dimmi se tu stai o non stai con me. Adesso dimmi se l'hai fatta e qual è il perché. Senza motivo mi hai colpito sulla schiena. Non capisco se fai schifo, se fai pena. Adesso dimmi se tu stai o non stai con me. Adesso dimmi se l'hai fatta e qual è il perché. Voglio una giustificazione ad ogni azione. La pagherai con gli interessi, sporco traditore. Ha ha ha.